Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È chiaro che o si rottama l'Italicum o si ferma la riforma, se si vuole evitare questa combinazione. L'Italicum non lo si vuole rottamare e non resta che l'altra scelta. E qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bisogna mettersi l'animo in pace. Fino a che non si voterà per il referendum, si continuerà con questo dibattito, con questo scontro, confronto, eccetera, eccetera. E qui Bersani che parla dell'Italicum e dice se non si rottama. D'altronde Renzi stesso aveva, diciamo, dato nuovo splendore a questo verbo di rottamare. Quindi qui adesso chi vuole rottamare da una parte, chi dall'altra. Ma noi per oggi, per iniziare questa settimana, ci prenderemo una sosta dalla politica italiana, tranne che nella ricostruzione della giornata, naturalmente con tutte le notizie più importanti. Invece approfondiremo altri temi, cercheremo di capire cosa è successo in Germania oggi con questa esplosione nel polo del colosso chimico BASF. Ci sono almeno due morti per il momento, ma purtroppo ancora il bilancio potrebbe non essere definitivo. E poi è arrivata la condanna in un processo di cui si è parlato moltissimo, quello a Veronica Panarello per l'uccisione del piccolo Loris di 8 anni nel Ragusano. Ne parleremo e dovremo anche riuscire a raggiungere il legale di Veronica Panarello. La condanna è stata a 30 anni di carcere, questo in primo grado. Poi altri temi, per esempio tutto questo caso montato intorno ai Icardi, capitano dell'Inter, per capirne qualcosa di più. Poi approfondiremo anche questo argomento. Intanto lo sapete che voi per interagire con Effetto Notte avete la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è sempre quello 349-238-6666, 349-238-6666. E allora, prima di tutto, come sempre, capiamo che giornata è stata. La manovra economica, ancora... sulla manovra ci sono delle contestazioni da parte dell'Unione Europea. E poi l'Iraq, battaglia finale dell'esercito di Baghdad per liberare Mosul dall'ISIS, sul terreno anche forze speciali americane insieme ai curdi iracheni e alle milizie sciite. Germania, allarme non ancora del tutto reiterato dopo le esplosioni, dopo le esplosioni negli impianti chimici BASF. Il bilancio per il momento di 2 morti, 6 feriti e 2 dispersi. Stati Uniti, la visita di domani di Renzi alla Casa Bianca, dice il portavoce americano, è un'opportunità per discutere una serie di sfide con un partner importante e per ribadire l'amicizia tra i due paesi. L'omicidio del piccolo Loris, la madre Veronica Panarello, unica imputata nel processo per la morte del bimbo di 8 anni, condannata a 30 anni di carcere. Tra poco Effetto Notte il suo legale. Austria, il governo austriaco annuncia che verrà abbattuta la casa natale di Hitler, al suo posto verrà costruito un nuovo edificio. Calcio, Icardi resta capitano dell'Inter, si scusa con i tifosi assicurando che saranno tolte dalla sua biografia le pagine contestate. E appunto partiamo dai primi rilievi di Bruxelles sulla manovra economica italiana. Il governo lavora alle ultime limature sulla manovra da 27 miliardi che dovrebbe approdare oggi entro la mezzanotte a Bruxelles. Piccole messe a punto su singoli capitoli, spiegano al Tesoro, nulla di più. Crescita all'1% e deficit al 2,3% assicurano sono numeri stabili. Ma la soglia del deficit scelta dal governo, superiore al 2% stimato in precedenza, potrebbe non piacere a Bruxelles. Dalla Commissione fanno sapere che non c'è la volontà di alimentare tensioni con l'Italia, anche se i numeri della manovra non sono quelli concordati. Aspettiamo, dicono quindi, di vedere i documenti. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, al microfono di Mix 24, spiega che l'Europa promuoverà la manovra. Sì, io prevedo di sì, l'Europa si divertirà e diletterà a giocare con i numeri, le singole misure eccetera, perché questo è quello che fanno ormai, ma alla fine la manovra riduce il deficit rispetto all'anno scorso e c'è un sacco di investimenti. Il governo difende anche le scelte fiscali, sparisce Equitalia, inglobata dall'Agenzia delle Entrate, è prevista la rottamazione di cartelle esattoriali per 75 miliardi di euro e così chi ha debiti con il fisco per multe, IMU, TASI, IRPEF, IRAP e IVA potrà chiudere il contenzioso. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora spostiamoci sulle notizie dall'estero, una lunga pagina di notizie partendo dall'Iraq dove è stata lanciata la battaglia finale dell'esercito di Baghdad per liberare Mosul dall'ISIS. Sul terreno anche forze speciali americane insieme ai curdi iracheni e alle milizie sciite. Sentiamo il commento di Alberto Negri. La battaglia per Mosul contro l'ISIS non è soltanto un'operazione complicata dal punto di vista militare, ma anche politico. L'attacco coinvolge l'esercito iracheno con le milizie dei peshmerga curdi e quelle sciite, strette alleate del governo di Baghdad e dell'Iran. Sono inoltre schierate le forze speciali americane e le milizie addestrate dalla Turchia. È il più grande intervento militare in Iraq da quando le truppe statunitensi si sono ritirate nel 2011. Qual è l'obiettivo? Liberare la città, ma anche contenere le perdite civili e soprattutto impedire che la caduta di Mosul si trasformi in una pulizia settaria tra sciiti e sunniti, come è accaduto in altre offensive contro il califfato. I peshmerga curdi hanno annunciato che non entreranno in città e c'è tensione tra Ankara e Baghdad per la partecipazione anche indiretta della Turchia, che occupa da mesi una base militare irachena. Più che una coalizione di volonterosi, questa è una coalizione di litigiosi. La battaglia di Mosul è una formidabile contraddizione. Gli americani devono contare sull'esercito iracheno e le milizie sciite legate all'Iran, mentre in Siria Stati Uniti, Turchia e i loro alleati arabi sono avversari della Repubblica Islamica che con la Russia sostiene Assad. Ecco perché la battaglia di Mosul, come quella di Aleppo, è importante. Queste sono le città chiave per definire le future zone di influenza sia in Siria che in Iraq. A proposito di Siria, civili a rischio e molte vittime tra i bambini anche in Siria, dove resta sotto assedio Aleppo. Ad Aleppo si continua a morire sotto le bombe, di almeno 14 civili uccisi, il bilancio di raid aerei governativi russi nelle ultime ore. E intanto il generale russo Sergei Rutskoy, citato dalla TASS, fa sapere che da inizio settembre sono morti nella città siriana oltre 130 bambini a causa degli attacchi di miliziani contro le strutture di interesse sociale, scuole, moschee, mercati, e che il 20 ottobre dalle 8 del mattino alle 16 nella zona di Aleppo sarà introdotta una pausa umanitaria per evacuare malati e feriti. Tutto questo nel giorno in cui a Lussemburgo si sono riuniti i ministri degli esteri europei sul tavolo proprio la situazione in Siria, ma per ora non si discute di eventuali nuove misure nei confronti di Mosca responsabile dei raid. A smentirlo è la stessa rappresentante della politica estera europea, Federica Mogherini. Il tema delle sanzioni oggi non è sul tavolo, non quelle sulla Russia rispetto alla Siria, nessuno Stato membro le ha proposte. La possibilità di nuove sanzioni contro la Russia, spiega il ministro degli esteri italiano Gentiloni, è stata evocata a Lussemburgo, ma solo per definirla come non realistica e non attuabile anche da parte dei paesi che sarebbero teoricamente favorevoli. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora la Germania. Non è ancora tutto rientrato l'allarme dopo le esplosioni negli impianti chimici BASF lungo il fiume Reno. Il bilancio di 2 morti, 6 feriti e 2 dispersi al momento. I 2 morti accertati sono lavoratori di BASF, ha reso noto così l'azienda. Intanto almeno 21.000 persone sono state messe in condizioni di sicurezza per scongiurare il rischio di un'eventuale contaminazione da sostanze tossiche. Ne torneremo a parlare, come vi dicevo, qui effetto note più tardi. Il presidente del Consiglio Renzi è in volo in queste ore verso gli Stati Uniti per la cena domani con Barack Obama, l'ultima cena di Obama da presidente. Si chiama lo State Dinner, sul volo di Stato con il premier, tra gli altri c'è Roberto Benigni, la campionessa paralimpica Bebe Vio. Prima di Renzi altri 3 presidenti del Consiglio italiani hanno avuto questo privilegio di partecipare alla mensa, alla questa ultima cena americana. Tra l'altro, se volete anche dei particolari sul menù, eccoli qui, sono usciti poco fa: agnolotti di patate dolci con burro e salvia, insalata di zucca, braciole di manzo con colatura di rafano e friarelli. Questo in omaggio ai piatti italiani è il menù che lo chef Mario Batali servirà nella cena di Stato, appunto offerta da Barack e Michelle Obama al Presidente del Consiglio Renzi. E buon appetito, bisogna dire. Poi da Obama arriverà probabilmente anche il sostegno al referendum di dicembre, referendum sul quale resta serrato, avete sentito già all'inizio, il confronto tra il sì e no. Oggi udienza del TAR sul ricorso delle opposizioni. Un'udienza che è durata oltre 3 ore, quella dei giudici del TAR del Lazio. Il Tribunale amministrativo è chiamato ad esprimersi sul ricorso proposto da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana contro il testo del quesito referendario. Il verdetto del TAR non arriverà prima di 24 ore. Sul fronte dei contenuti, intanto, il Movimento 5 Stelle lancia un sito internet per spiegare nel dettaglio le ragioni per il no. Siamo ridotti come ci siamo ridotti per aver detto dei sì di troppo, dice Grillo. Di Maio intervenuto a Radio 24 aggiunge: tutto è legato alla volontà del Presidente del Consiglio di provare a coinvolgere cittadini per fargli votare sì. Inseguendo questo sì sta portando il Paese verso il baratro. Carbone, PD, spiega perché votare sì. Se vince il sì al referendum avremo un'Italia più moderna, più semplice, più efficace e sicuramente meno costosa. O si rottama l'Italicum o si ferma la riforma costituzionale, replica tuttavia sempre dal PD Bersani. Se qualcuno vuole sfidare Renzi, lo sfidi al congresso, commenta Franceschini. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora la politica italiana con i grillini sempre più impegnati sul no al referendum, intanto sono smentite le polemiche interne al movimento. Nel Movimento 5 Stelle non ci sono guerre per la leadership né correnti. Luigi Di Maio e Roberto Fico intervengono per smentire le ultime indiscrezioni che parlano di un aspro scontro interno in atto fra il vicepresidente della Camera e il presidente della Vigilanza Rai. Secondo la stampa, Fico sarebbe alla guida di una pattuglia di 70 deputati pronti a fare la guerra a Di Maio, candidato premier in pectore dei 5 Stelle, accusato di essersi troppo allontanato dalla linea originaria del movimento. I due negano con forza e parlano di ricostruzioni fantascientifiche. Nel frattempo però Di Maio finisce al centro di un nuovo caso che riguarda le sue spese per eventi sul territorio. 100.000 euro in 3 anni, sono meno di 3.000 euro al mese, è una cifra normale per un parlamentare, si giustifica il diretto interessato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E chiudiamo qui con la politica, passiamo invece alla cronaca giudiziaria con l'omicidio del piccolo Loris Stivalla. Veronica Panarello, unica imputata nel processo, è stata condannata a 30 anni di reclusione per l'uccisione del figlio Loris. La sentenza del gruppo di Ragusa, Andrea Reale, è stata emessa a conclusione del processo con rito abbreviato, condizionato da una perizia psichiatrica, sentenza che è arrivata intorno alle 19 di stasera. La procura aveva chiesto 30 anni per la donna accusata di aver strangolato il bambino con una fascetta di plastica nella loro casa di Santa Croce Camerina il 29 novembre del 2014 nel ragusano, di averne poi occultato il cadavere gettandolo in un canalone. Veronica Panarello, tra l'altro, non potrà esercitare la responsabilità genitoriale per la durata di tutta la pena principale nei confronti del figlio più piccolo. E poi ritorniamo, come dicevo, su questo caso che ha scosso molto l'opinione pubblica. Cercheremo di raggiungere il legale di Veronica Panarello. Restiamo però ancora sulla cronaca, perché è cominciato oggi il processo a Paolo Pietro Paolo, l'uomo che lo scorso 1 febbraio Pozzuoli diede fuoco a Carla Cagliazzo, la sua ex compagna incinta di sua figlia. Aveva dato fuoco all'ex compagna incinta di 8 mesi. Ora i PM della Procura di Napoli hanno chiesto 15 anni di reclusione per Paolo Pietro Paolo, il 41enne che ferì gravemente Carla Cagliazzo il febbraio scorso a Pozzuoli, vicino a Napoli. La richiesta è stata formulata nel corso della prima udienza del processo con rito abbreviato. La donna, 38 anni, fu fatta partorire d'urgenza immediatamente dopo l'accaduto. Da allora è stata sottoposta a 21 interventi chirurgici, l'ultimo di recente, tanto che Carla non ha potuto essere presente all'udienza, ma alla prossima, il 27 ottobre, se le condizioni fisiche lo permetteranno, cercherà di essere in aula per guardare in faccia l'ex compagno. A costituirsi parte civile anche l'associazione Forza delle Donne. Sentiamo l'avvocato Caterina Sanfilippo, intervenuta a Defetto Giorno. Lei vuole vederlo in faccia, non ha paura e ovviamente rappresenta un po' quelle che sono tutte le donne che vengono subiscono minacce, violenze da parte di mariti o ex compagni. Sta male, ma ha una grande forza, adesso ha una splendida bambina e quindi lo deve fare non solo per lei, per la figlia e per tutte le donne. Eugenia Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia adesso che arriva dall'Austria. Il governo austriaco ha annunciato che la casa dove nacque Adolf Hitler verrà battuta per essere sostituita con un nuovo edificio. Quindi, come dire, via le tenebre, un po' di luce finalmente. E poi, per chiudere lo sport, il bomber dell'Inter, Mauro Icardi, non perde la fascia di capitano, ma la sua biografia sarà epurata dalle pagine incriminate. Il giocatore dovrà pagare anche una multa. Queste sono le decisioni prese dalla società nerazzurra al termine di un summit svoltosi questa mattina ad Appiano Gentile. Poi cercheremo di capire tutto questo caso montato intorno a questo calciatore. C'è già un messaggio in proposito di Ulisse, se non sbaglio, vediamo se lo ritrovo. Sì, dice: la maggioranza dei tifosi interisti sta con Icardi. I fatti di due anni fa nuociono all'Inter e il rigore sbagliato ieri da Icardi non è dovuto al caso ma allo stato psichico del giocatore attaccato da alcuni tifosi della sua stessa squadra. E poi ne parleremo anche di questo. Mentre qualcuno scrive altri messaggi sulla sentenza di oggi per Veronica Pannarello, questo vabbè, è un argomento delicato sul quale neanche più di tanto il caso di dire giusto e sbagliato, è la sentenza. E poi Clotilde che mi ringrazia, dice: brava Roberta che oggi ci fa la grazia di sorvolare sulla politica, ma non tanto, chiaramente un po' bisogna raccontare, no, se tra le cose principali della giornata, però diciamo non sarà tra i temi di approfondimento. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte a interagire, oppure sul numero 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Ci sentiamo dopo la viabilità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti insieme, Roberta Giordano con voi tutte le sere, da lunedì al venerdì, qui per raccontarvi la giornata nel suo complesso e poi per approfondire alcuni temi in particolare. Voi sarete sempre aggiornate da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché qui arrivano messaggi dall'Australia, come dall'Africa, come dalla Germania o dalla Francia e dagli Stati Uniti. Naturalmente continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte a interagire con i vostri messaggi, le vostre osservazioni, oppure al numero 349-238-6666. Ancora vedo che uno dei temi che tengono di più è questo di Carlo. Alberto Icardi come giocatore non vale niente, come persona e ora meno degli ultimi. Poi ne parleremo verso la fine della trasmissione. Adesso ci concentreremo su altri temi, voi però continuate tranquillamente. Vedo anche una dichiarazione della Casa Bianca, se non sbaglio: Brexit all'italiana non è un tema in agenda domani nell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il presidente del Consiglio Renzi. Non so chi l'avesse messo all'ordine del giorno. Considerate tutte le altre priorità che i due leader intendono discutere, quel tipo di speculazioni non credo emergeranno. Non so chi abbia fatto la domanda su una possibile Brexit italiana, non avevo mai sentito parlare prima. Comunque, tra poco dovremo raggiungere l'avvocato di Veronica Pannarello. Oggi è arrivata la sentenza di condanna a 30 anni di carcere per l'uccisione del figlio Loris, il bambino di 8 anni. Ne parleremo tra pochi istanti, però prima vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali della giornata. In Iraq la battaglia definitiva per Mosul, si spera, contro l'ISIS, truppe americane sul terreno, in campo l'esercito iracheno e i curdi, e l'ONU avverte sul rischio di scudi umani tra i civili. Unione Europea, i numeri della manovra italiana sono diversi dagli accordi, dice Bruxelles, però intanto aspetta di vedere le carte. E poi Bersani, a proposito di referendum, dice: o si rottama l'Italicum o si ferma la riforma. E poi il caso Loris, la sentenza del GUP, la madre condannata a 30 anni accusata di averlo strangolato e poi gettato in un canalone, ne parleremo tra pochissimo. Mosca annuncia una breve tregua ad Aleppo in Siria e denuncia la strage di bambini. E poi giovani e italiani nuovi poveri in Italia che vanno alla Caritas. L'Italia è al quarto posto in Unione Europea per l'aumento di rischio di povertà. Esplosione in un impianto chimico in Germania, due morti e due dispersi, allarme per una nube tossica, non ci sarebbero però pericoli per la salute, anche di questo poi parleremo. E le scuse di Icardi, il giocatore capitano dell'Inter, dice: ha usato toni inappropriati, verranno epurate quelle pagine della biografia che hanno fatto tanto discutere. E quindi adesso parliamo, vi dicevo, della sentenza per l'omicidio del piccolo Loris Stival, il delitto di Ragusa. È il bambino di 8 anni, ucciso il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina nel Ragusano. L'unica persona imputata in questo processo è sempre stata la madre di Loris, Veronica Pannarello, accusata di averlo ucciso, di aver occultato il corpicino gettandolo in un canale. Poco prima delle 19, vi dicevo, di stasera è arrivata la sentenza, che è di 30 anni di reclusione ed era la condanna che aveva chiesto la procura, e quindi ha messo fine a questo processo di primo grado con rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica. Ne vorrei parlare con il legale di Veronica Pannarello, che è Francesco Villardita. Buonasera avvocato, immagino buonasera, sia una giornata. Lei, la ringrazio per la disponibilità, visto la giornata particolarmente concitata, immagino. Lei è tranquillo, la sento avvocato? Ma guardi, tranquillo non proprio, no, perché abbiamo una sentenza a 30 anni e quindi dobbiamo attrezzarci, come facciamo sempre noi avvocati quando perdiamo un processo, ad andare avanti e fare l'appello, quindi tranquillo no. Però diciamo questo in brevissimo. il giudice non ha creduto alla ricostruzione dei fatti offerta da Veronica Panarello, ha tolto le aggravanti della premeditazione e delle sevizie, rimaneva solo l'aggravante oggettiva del rapporto di filiazione. Con questa sola aggravante del rapporto di filiazione, il nostro codice penale prevede la pena dell'ergastolo. Con il rito abbreviato e la riduzione di un terzo si va a 30 anni. Quindi non è che la pena ci sorprende più di tanto, il problema è il giudice non ha creduto alla signora Panarello perché, questo lo vedremo nelle motivazioni, il giudice non ha ritenuto che il delitto sia stato commesso con la presenza di due soggetti all'interno della scena del crimine, e questo lo vedremo, e lo vedremo il perché con le motivazioni. Il giudice non ha creduto a una criminodinamica così come rappresentata dalla signora Panarello, e lo capiremo con le motivazioni. Per il resto la pena non ci sorprende, perché se non vengono concesse le attenuanti generiche la pena di 30 anni ci sta tutta, perché il nostro codice penale prevede questo. Quindi non c'è nessuna meraviglia nella pena di 30 anni, e quindi qua si trattava solo di due valutazioni: crederla o non crederla. Se non la credo, la pena di 30 anni ci sta. Senta, avvocato Villardita, però è vero che potevano essere date. È vero che ha cambiato varie versioni, no, Veronica Panarello, dall'inizio delle indagini. Guardi, del processo. In effetti ci sono tre versioni diverse. Però sa, ha effettuato un percorso, a mio avviso, psicologico particolare per arrivare ad una confessione piena. E quindi il fatto che abbia potuto anche mentire, noi l'abbiamo dato al giudice, l'abbiamo messo in conto. Ma non c'è un sillogismo, tutti i bugiardi sono colpevoli, Veronica Panarello è bugiarda e quindi Veronica Panarello è colpevole. Noi questo non lo possiamo accettare, per questo lo dico, vediamo quali sono le motivazioni. Ammesso che abbia potuto anche mentire, ha effettuato un percorso che sicuramente è stato molto tortuoso, che è sicuramente stato un percorso non lineare, ma pieno di curve e pieno di tornanti per poter arrivare ad una confessione. Il giudice non l'ha creduta, quindi il problema è di credibilità. Noi abbiamo offerto una ricostruzione alternativa. Questa ricostruzione alternativa non è stata accettata, ritengo, ovviamente, per la sentenza che c'è dal decidente. Adesso aspettiamo le motivazioni e ricorreremo in appello. Avvocato Villardita, lei parlava della confessione, insomma, secondo lei avrebbe commesso il delitto insieme a qualcun altro o è innocente, come dice lei, attraverso tutte queste varie versioni che ci sono state? Guardi, nel io tempo? Io non ho mai detto che Veronica Panarello è soggetto assolutamente innocente. Veronica Panarello e lei stessa non si autoesclude dal fatto. Bisognava capire se era accettabile una criminodinamica che la vede sola in 12 minuti commettere il delitto, se è possibile la preparazione del delitto, l'esecuzione del delitto e il momento successivo al delitto, e quindi spogliare il bambino, rivestirlo, togliere le fascette, mettere il giubbino, scendere tre piani di scale, il tutto in 12 minuti. Ora, questa ricostruzione, questa criminodinamica, noi l'abbiamo fortemente contestata. Il giudice evidentemente non ha ritenuto le nostre argomentazioni valide al punto da poter emettere una sentenza diversa rispetto a quella della condanna, ma le ripeto, ce lo dovrà spiegare e ci dovrà essere molto convincente, perché ovviamente noi ricorreremo in appello. Avvocato Villardita, comunque diciamo l'ultima versione di Veronica Panarello era quella che incolpava il suocero Andrea Stival, padre di suo marito e nonno del piccolo Loris, dicendo c'era una relazione tra me e lui, certo, lui il bambino l'ha scoperta, sì, e lui per non farlo parlare lo ha ucciso. Adesso vedo però che fra l'altro oltre alla condanna di 30 anni c'è stato anche il risarcimento danni sia per Andrea Stival che per la nonna. Certo. Voglio dire anche un'altra cosa a tal proposito. Non dobbiamo dimenticare che questo movente è stato ritenuto valido dalla Procura della Repubblica, che l'ha fatto proprio. Quindi da una parte la Procura crede alla relazione, dall'altra non crede alla compartecipazione a qualunque titolo della Panarello col suocero nell'evento omicidiario, dall'altra il giudice non trasmette gli atti per poter agire nei confronti del signor Andrea Stival, ma emette una sentenza di condanna solo a carico della Panarello. Veda, c'è tutta una serie di contraddizioni in questo processo che ci auguriamo che possano essere dissipate nella motivazione della sentenza. Avvocato Villardita, un'ultima cosa. Tra le altre cose è stata anche tolta la genitorialità a Veronica Panarello per la durata della condanna nei confronti del bambino più piccolo, del fratello. Ma quella rientrava come pena accessoria ordinaria con una sentenza a 30 anni. Ci sono delle pene accessorie che sono obbligatorie per legge, quindi su quella non possiamo mettere assolutamente parola. Si sta tutta perché è corretta la pena, e la pena cioè la pena accessoria in relazione alla pena data. Il prossimo passo, diceva, quindi è il ricorso in appello. 90 giorni per le motivazioni della sentenza, le aspettiamo con grande ansia, non ci abbattiamo e continuiamo nel nostro lavoro per come abbiamo sempre fatto in questi due lunghissimi anni. Veronica Panarello ha pianto dopo la sentenza. Molto, molto, sì. Ha pianto prima entrata in aula e poi ha pianto tantissimo dopo la sentenza che gli è passa incredibile. Staremo a vedere. Allora buon lavoro. È un primo passo. Buon grazie. Lavoro, buona continuazione, grazie. Avvocato Villardita. Grazie a lei. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera. A voi. Ora su questo caso vorrei sentire anche Peppe Savage, giornalista di Ragusa News, che dall'inizio che ha seguito questa vicenda. Ciao Peppe. Buonasera, buonasera a tutti, Roberta, a te e ai radioascoltatori. Hai sentito Peppe, quindi l'avvocato sì, legale di Veronica Panarello? L'ho ascoltato con molta attenzione. C'era appunto c'era questo intreccio di versioni che ha dato Veronica Panarello dall'inizio. Prima ha detto l'ha accompagnato a scuola il bambino, all'uscita poi non l'ho trovato, poi ha detto no, è rientrato in casa senza andare a lezione, però non ricordo altro. Poi dice è stato un incidente, è morto mentre stava giocando con delle fascette elettriche, poi l'ha ucciso mio suocero, no? Però lui dice, l'avvocato, non è che l'essere bugiardi per forza combaci col fatto di essere colpevoli, però ha detto io non ho mai dichiarato che non è assolutamente colpevole, che è totalmente innocente, no? Allora, Roberta, a me fa molta impressione e molto senso un'immagine che è del 29 novembre del 2014. Cioè quel giorno stesso, no? In cui fu quando il bambino viene ritrovato nel canalone e la madre, bianca in volto, accompagnata per un braccio dal marito e per un braccio dal capo della polizia locale, scopre la terribile verità sulla fine di suo figlio, risultando assolutamente credibile nello stato d'animo, nella disperazione, nella disperazione. Ecco, questa immagine per me è l'immagine di questo processo, perché è vero che Veronica ha fatto un percorso all'indietro, al ritroso, difficile, prima dalla rimozione di ciò che aveva compiuto, perché lei stessa ammette di essere stata in qualche modo partecipe dell'omicidio del figlio, e poi il recupero lento, contraddittorio di una memoria di quello che è stato, di quello che sarebbe stato, dove comunque lei è protagonista, e se non è artefice è testimone, e se non è solo testimone è anche complice. Quindi Veronica ne esce comunque come una figura negativa, purtroppo. È una ragazza che ha avuto problemi nella genitorialità, nella propria e in quella che ha ricevuto. Ha avuto difficoltà a riconoscere da piccola la figura paterna, una ragazza instabile, molto fragile emotivamente. Io tutte queste attenuanti alla ragazza le riconosco, anche non conoscendola, perché capisco che è una ragazza che ha sofferto molto e che forse non era in grado di sostenere la genitorialità, ma non c'è dubbio che lei, o come artefice omicida del proprio figlioletto, o come semplice testimone oculare, o come complice di un terzo che avrebbe ucciso suo figlio, comunque lei c'era e comunque lei ci ha mentito quando si è recata al canalone, mostrandosi addolorata, affranta e sorpresa di tanta disumanità nei confronti di un bambino di 8 anni. Diciamo, Peppe, che quello che manca forse ancora, anche se diciamo i PM lo individuano in questo rapporto complesso con il figlio, quasi d'amico e non da madre alla a figlio. Alla pari. Manca proprio un movente certo, forte, no? Ma c'è un fatto, ora il suo cervello è stato ritenuto estraneo al delitto. C'è stato un incremento di telefonate di cui non conosciamo i contenuti, ma un incremento di telefonate, di chiamate fra la nuora e il suocero nei mesi precedenti l'omicidio. Questo potrebbe essere indizio di una relazione, di una intensità di rapporto fra i due. Questo potrebbe anche accadere. Può darsi che lei a un certo punto si sia sentita minacciata forse dal bambino, da quello che davvero il bambino aveva visto, da quello che il bambino aveva capito. Penalmente no, è irrilevante l'eventuale rapporto di Veronica col suocero. Questo non ha rilevanza penale, come noi sappiamo. E ancora non è comprovato del tutto, tra l'altro. Non no? è comprovato sospetto. E non è penalmente rilevante. Certo. Quindi il fatto che lei possa anche avere dato una volta un bacio al suo suocero e null'altro più che non un bacio, non rappresenta un reato, un fatto penalmente rilevante. Potrebbe essere però il momento che ha spinto questa mamma fragile, che aveva un rapporto alla pari col figlioletto, che considerava un amico, può averla spinta a eliminare il testimone scomodo. Potrebbe essere questa obiettivamente una ragione del proprio comportamento assurdo, folle, pazzo. Chiaro. Peppe Savà, io ti ringrazio, giornalista di Ragusa News, e poi vedremo, questo è il primo passo, diceva l'avvocato, vedremo poi come proseguirà questa vicenda così triste. Grazie Peppe, ciao, buon lavoro. A voi, buonasera. Ciao. Vedo i vostri messaggi ancora, dice un ascoltatore, ma tra Renzi e Benigni, che andranno, sono praticamente alla Casa Bianca tra poco, chi parla parlerà in un inglese toscanaccio con Obama? È probabile, diciamo, sono un po' sulla stessa linea. Poi ringrazio questo ammiratore vibrante, molto generoso. Luciano dice: i tifosi di calcio non accettano le frasi violente di Icardi perché sono abituati a gettare scooter dagli spalti o a coltellarsi nei parcheggi. Fa questo paradosso, Luciano. Ne parleremo anche di questo fatto più tardi. Tra poco anche cerchiamo di capire cosa è successo effettivamente in Germania, se c'è davvero questo rischio di nube tossica oppure è stato scongiurato del tutto. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice anche Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando. E tra poco, a proposito di parti del mondo, ci concentreremo come tema sulla Germania, su queste esplosioni che ci sono state oggi, capiremo se c'è ancora rischio di lume tossica oppure no. Intanto i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, il numero per i WhatsApp ed SMS. Dice un ascoltatore: non riesco, Roberta, più a sentire parlare di Bersani, D'Alema, Berlusconi, Brunetta, Gasparri. Sono politico da 30 anni e non ho a che fare niente con loro, non valgono nulla e basta. Vabbè, oggi abbiamo detto che scioperiamo brevemente dalla politica perché poi ce n'è da parlare tutti i giorni. Oggi abbiamo approfondito altri temi, abbiamo parlato con l'avvocato di Veronica Panarello perché sapete che oggi è arrivata la sentenza sul delitto di Ragusa del piccolo Loris Stivalla, con una condanna per la madre, unica imputata nel processo, a 30 anni di reclusione. Adesso invece tra poco capiremo in Germania appunto che cosa è successo, ma se non avete acceso puntualmente alle 21, questi i titoli principali. La manovra economica, l'Unione Europea mette in guardia l'Italia e dice: i numeri non sono quelli, non sono diversi da quelli annunciati. Iraq, battaglia finale dell'esercito di Baghdad per liberare Mosul dall'ISIS, sul terreno anche forze speciali americane insieme ai curdi iracheni e alle milizie sciite. Germania, allarme non ancora del tutto rientrato dopo le esplosioni negli impianti chimici. BASF, il bilancio è di 2 morti, 6 feriti e 2 dispersi, ne parleremo tra pochissimo. Stati Uniti, la visita di domani di Renzi alla Casa Bianca, dice il portavoce americano, è un'opportunità per discutere una serie serie di sfide con un partner importante e per ribadire l'amicizia tra i due paesi. L'omicidio del piccolo Loris, la madre Veronica Panarello, unica imputata nel processo per la morte del bimbo di 8 anni, condannata a 30 anni di carcere. Avete sentito poco fa qui effetto note il suo legale. Austria, il governo austriaco annuncia che verrà abbattuta la casa natale di Hitler, al suo posto verrà costruito un nuovo edificio. E per il calcio, Icardi resta capitano dell'Inter, si scusa con i tifosi assicurando che saranno tolte dalla sua biografia le pagine contestate. Parliamo quindi dell'esplosione in Germania oggi nell'area del colosso chimico BASF. Il bilancio sarebbe di 2 morti, 6 feriti e 2 dispersi. Per il momento la polizia esclude, questa è già diciamo nella tragedia una buona notizia, esclude che si tratti di terrorismo, ma ce ne parla il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. È scattato l'allarme per la nube tossica, poi è stato detto che in realtà non c'era pericolo, però 21.000 persone sono state messe in sicurezza, no? Per sì, scongiurare diciamo, qualsiasi... Poi è un'area anche abbastanza densamente popolata, quella, sono due città, una di fronte all'altra, Ludwigshafen, entrambe in Renania Palatinato. Lungo il Reno. Lungo il Reno. Abbiamo Ludwigshafen a sinistra e Mannheim a destra, due città ad altissima industrializzazione. Ludwigshafen che ha questo impianto della BASF, che è il più grande al mondo, impianto chimico, e Mannheim che ha anche Mannheim degli impianti delle industrie chimiche, ma anche industrie meccaniche. Basti pensare a Bombardier per esempio, o anche Daimler. Quindi diciamo che è una zona estremamente industrializzata della Germania, tra l'altro purtroppo non nuova per quanto riguarda BASF, sì, perché Focus, il settimanale tedesco Focus, oggi scriveva che dall'inizio dell'anno ci sono già stati 15 incidenti nell'impianto BASF, di cui probabilmente si è saputo poco, perché probabilmente sono state perdite anche contenute, però non è una buona non cosa, è una buona certo. cosa né c'è stato tra l'altro un incidente 2 anni fa, invece più grosso, sempre a Ludwigshafen. Dicevi della nube tossica, non è al momento considerata tossica, potremmo dire, però parliamo di misurazioni fatte da BASF. La stessa BASF in conferenza stampa ha detto che non ci sono incrementi di sostanze tossiche nell'aria o nell'ambiente. Le esplosioni sono state 2 comunque, no? La prima è stata un po' più, come dire, è stata a 18 km più a nord in un impianto di additiva all'Ampertheim. Però ha fatto diciamo 4 feriti. Poi c'è stata quella più grossa proprio nell'impianto chimico di Mannheim. C'è stata una perdita in una conduttura che ha originato a quanto pare delle fiamme, sono arrivati i pompieri e a quel punto c'è stata la vera e propria esplosione. Infatti si teme che fra le vittime o i dispersi ci siano anche dei vigili del fuoco intervenuti proprio per sedare il primo. Le 2 vittime certe sono 2 operai, no? Della non BASF. non sono state ancora identificate. Non è stato chiarito di chi si tratti, anche perché fino alla serata il bilancio è tuttora provisorio. Il bilancio è ancora abbastanza, forse, anche se fortunatamente pare che si stia sempre più riducendo. Però appunto la BASF ha fatto queste misurazioni, che continua a fare, dice al momento non c'è pericolo, però le stesse autorità tedesche stanno dicendo la priorità è, l'ha detto la ministra dell'ambiente, la priorità è la salute delle persone e anche l'ambiente. Quindi diciamo, io la mia opinione personale è che nelle prossime ore o giorni sapremo la verità, nel senso che una volta sedato l'incendio, domato l'incendio e una volta avuto l'accesso all'area e insomma analizzate anche un po', analizzata meglio l'aria con più calma, analizzato anche da l'ambiente, terzi, insomma, no? Esatto, forse ne sapremo di più. Di certo non è stato un bello spettacolo per chi ha visto le immagini, vedere questa nube tossica enorme, fumo gigantesca, nero altissimo, fumo sì. nero altissimo, levarsi appunto in aria, tra l'altro dirigendosi verso l'altra città, quella di Mannheim, che sta esattamente dall'altro lato del Reno. Quindi insomma, viene il sospetto che la BAS forse qualche misura in più di sicurezza per evitare, visto che parlavi di vari incidenti, direi proprio che la BAS dovrebbe insomma rendere un po' più conto di delle misure anche di sicurezza interne per evitare incidenti di questo tipo all'interno dell'impianto Ludwigshafen. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Viabilità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le avete sentite finora, poi vi ricorderò le principali tra pochissimo. Continuate con i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ne vedo un numero particolare poi sulla vicenda di Icardi, diciamo una cosa un po' più leggera che vi ha particolarmente colpito, almeno evidentemente per chi segue il calcio. Ne parleremo più tardi. Intanto, fra poco c'è lo spazio europeo, vi ricordo quali sono i titoli principali di questa giornata. La battaglia per Mosul in Iraq contro l'ISIS, truppe americane sul terreno, in campo l'esercito iracheno, i curdi e l'ONU avverte sul rischio che i civili vengano presi come scudi umani. L'Unione Europea che avverte l'Italia dice i numeri della manovra economica sono diversi da quelli degli accordi, però aspetta a Bruxelles di vedere le carte. E poi Bersani sul referendum dice o si rottama l'Italicum o si ferma la riforma. E poi la sentenza sull'omicidio del piccolo Loris, è arrivata la condanna a 30 anni per la madre unica imputata, Veronica Panarello, ne abbiamo parlato con l'avvocato della donna condannata. E poi Mosca annuncia una breve tregua ad Aleppo in Siria e denuncia la strage di bambini. Giovani e italiani, il rapporto della Caritas, rapporto 2016 che dice che i nuovi poveri sono soprattutto italiani e tra italiani in particolare i giovani, i nuovi poveri che vanno alla Caritas. E poi ne abbiamo appena parlato di questa esplosione che c'è stata nell'impianto chimico BASF in Germania, il bilancio è 2 morti, 2 dispersi e 6 feriti, inizialmente l'allarme per la nube tossica, poi sembra rientrato, ma insomma bisogna capire se ci sono o no pericoli per la salute. E poi le scuse di Icardi, il capitano dell'Inter, che dice ho usato toni inappropriati. E poi c'è stata anche la Digos a casa sua oggi. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi ci occupiamo di austerity. Il Parlamento europeo ha approvato con 460 voti a favore e 127 contro un rapporto in cui chiede il superamento delle riforme strutturali e di fatto il superamento dell'austerity, come incentivando investimenti pubblici per contrastare disoccupazione e povertà. Nel rapporto si chiede che le raccomandazioni specifiche per paese tengano conto non solo degli indicatori economici, ma anche di quelli occupazionali e sociali, valutando ex ante le riforme da attuare e il loro impatto sui cittadini. Ne parliamo con l'europarlamentare Laura Agea, che saluto. Con questo rapporto il Parlamento europeo chiede di fatto il superamento dell'austerity. In che direzione si suggerisce di andare? Sicuramente l'ambito sociale è un tema estremamente importante per il Parlamento europeo. È ovvio che, ahimè, le riforme strutturali, le regole imposte proprio dalla Commissione piuttosto che dalle banche, diventa difficile poterle conciliare in maniera efficace con quella che è una politica sociale invece necessaria. Oggi in Europa ci sono milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà e non è di certo con pareggio di bilancio che impedisce investimenti che creano occupazione, che si può dar sollievo a questa situazione sociale che è veramente tutto tranne che favorevole. Quali sono le proposte contenute nel rapporto? Abbiamo chiesto superamento assoluto di politiche dell'austerity che impattano sui cittadini. Abbiamo chiesto una valutazione ex ante, quindi fatta prima delle riforme strutturali, che valuti quello che può essere il loro impatto sociale. Abbiamo chiesto politiche che vadano veramente dalla parte dei cittadini e che impattino a livello sociale per alleviare lo stato di povertà nella quale vivono milioni di cittadini. Abbiamo chiesto per esempio la possibilità di parlare e anche di cominciare a pensare a un reddito minimo a livello europeo per cercare veramente di portare al di sopra della soglia di povertà i milioni di cittadini che oggi vivono in questa condizione. Abbiamo chiesto un sistema pensionistico che non favorisca solo chi per esempio ha regimi pensionistici di tipo privato, ma valuti anche tutti i 3 pilastri per esempio delle pensioni a partire da quello delle pensioni pubbliche. Cosa dovrebbe fare quindi l'Italia per sbloccare l'austerity? Abbiamo bisogno di investimenti in settori veramente strategici, non possiamo solo pensare alla ricostruzione dopo che un terremoto ha devastato per esempio intere città, ma dovremmo riprogettare la sicurezza degli edifici pubblici, puntare all'economia verde, all'economia circolare per creare posti di lavoro. Dobbiamo istituire un regime di reddito minimo perché in Italia ci sono 6 milioni di poveri che necessitano di una politica veramente importante di sostegno alla povertà, quindi se già iniziassimo con questi 2 ambiti, forse potremmo veramente cominciare a tirare un sospiro di sollievo. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Oh, e adesso soffermiamoci su questo caso montato intorno al capitano dell'Inter, della squadra di calcio dell'Inter, Mauro Icardi. Ne parliamo con il nostro Carlo Genta, sapete, tutti i giorni convocato, adesso lo convoco qui a Effetto Notte, ma tutti convocati tutti i giorni alle 14. Ciao Carlo. Ciao Roberta, grazie della convocazione. Carlo, senti, ci sono vari ascoltatori che dice Luciano, per esempio, un altro dice sono tutti i tifosi sono con Icardi, adesso lo stanno destabilizzando psicologicamente. Poi un altro dice Luciano, i tifosi di calcio non accettano le frasi violente di Icardi perché sono abituati a gettare scooter dagli spalti o a coltellarsi nei parcheggi. Ci spieghi in breve? Ma sai che io non sono molto distante da questa idea che hanno i nostri ascoltatori. Anche perché, certamente, allora, rapidissimo riassunto, sì. Icardi ha scritto questa autobiografia che è stata presentata. Non si sa bene chi dell'Inter l'abbia controllata, probabilmente nessuno. C'è una paginetta, un paio di paginette che raccontano di un episodio avvenuto 2 anni fa a Modena dopo una sconfitta col Sassuolo, quando Icardi, insieme a Guarina, allora giocatore dell'Inter, andò sotto la curva dell'Inter che vomitava insulti e che sotto gli ultra dell'Inter che erano estremamente infuriati, gli ha tolto magliette e pantaloncini e li ha buttati ad un bambino, un ultra gli ha strappati il bambino, gli ha ributtati indietro e da lì è scoppiata una lite verbale. Ovviamente non si sono detti belle cose. Poi Icardi ha scritto una cosa inaccettabile che aveva detto in spogliatoio, probabilmente dettata dal furore: vi sfido tutti uno per uno, faccio venire 500 criminali dall'Argentina e vi facciamo fuori. Certamente questa è una frase indifendibile. Per quanto riguarda tutto il resto, allora il comunicato dell'Inter di oggi dopo l'incontro tra il giocatore e la società dice che lui resta capitano, sì, però che è quello che contava, resta capitano, gli spileranno un bel po' di soldi, ma tanto ne guadagna un sacco appena rinnovato il contratto, la multa. Però la fascia rimane sul braccio di Mauro Icardi e mi sembra l'unica soluzione possibile per non darla vinta a quei 30-40 professionisti del tifo che tengono spesso in ostaggio la nostra società. Grazie Carlo Genta, lo ritrovate domani alle 14 come sempre. Ciao Carlo, e queste pagine saranno epurate, così ha promesso oggi Icardi. Questo è stato un po' il compromesso. Direi che a questo punto possiamo brevemente lasciarci, ci riaggiorniamo poi alle 22.